che ci legge qui? Non ci si capisce niente. Tutto una confusione. Ma guarda te. Guarda niente, non c'è niente da guardare, solo segnacci ovunque, incomprensibili. Beh, neanche i numeri. Almeno capire i numeri così da metterli in ordine. Dai, su, sforzati almeno di leggere quelli. Se riesci a leggere le cifre, già un passo avanti, un numerino dopo l'altro. Ordine! C'è bisogno di ordine. Poi va a finire che se la prendono con te, che non hai lavorato bene. Ecco, qui c'è un 1. Sono 4 cifre, la prima è un 1, la terza è sicuramente un 4, ma la seconda un 2, un 6 o un 8. La curva in alto è chiara, ma sotto manca troppo, là sotto manca. E chi se ne frega se manca, io interpreto, la scienza è interpretazione. Ricalcolo, 4 cifre, 1, 2 appunto, la terza è un 4, se la quarta e poniamo un 6 o un 7. Un 8, giusto, l'8 che non era prima, giusto, è un 8, prima era un 2, il numero intero mi viene, 1248. 1248. Suona bene. E poi è solo per cominciare. 1248, 1248, 1248. Chi non annega nei primi 100 metri, altri 100 chilometri per farlo. E se non è la barca che prende acqua e affonda, è il motore che si rompe, patatrac, e la manda alla deriva per giorni, settimane, nel buio della notte ghiaccio e tenebre, nel sole del meriggio arsura, e la merce va a male. 1248, 1248, chi può essere? Guarda quest'altro, facile questo, 2, 9, 1 e poi un bel 7, ma sì, 2917, ma sei sicuro che è un 7, non c'è dubbio, questo è un ragazzino, 2917, un nome a caso, Yusuf, Yusuf suona bene, questo viene dal Sahara occidentale, niente meno, la data non c'è, cancellata. Che rabbia quando mi si cancellano le date. Yusuf è un ragazzino, pelle nera, cosa vuoi che capiscono questi qua? Capiscono niente, pelle nera, vai a loro a parlare di democrazia. Ridicolo, sono ancora sugli alberi, magari si mangiano ancora tra loro e gli si va a parlare di democrazia. Tempo perso. Yusuf, da poco più di 2 mesi, con i pescatori della laguna, la laguna di Naila, fenicotteri rosa, pesci e capre nella bassa marea, una bella cartolina. Qui le acque salate sono calme, ma fuori il mare fa paura. L'oceano. Yusuf non lo ha mai visto, l'oceano. Il mare aperto. Sta appena imparando, guida la barca del padrone, un 2 metri nero e blu. Yusuf è uno sbruffone. 2917 sa tutto lui. Sempre è stato così. Solo perché ha imparato a mandare avanti la barcuzza del padrone e si crede chissà che. Comincia a far girare la voce. Per scherzo. Inizia per scherzo. Vi porto io in Europa, in Spagna, le Canarie sono lì, e che ci vuole? La barca ce l'ho, si parte quando si vuole, mi date la metà mi basta. Non sono onesto, la metà esatta di quello che vi spillano gli altri. Le Canarie sono lì, sono Spagna, un passo, una notte di viaggio, e che ci vuole? E va a finire che quelli ci credono. Cominciano a cercarlo. Yusuf! A portargli i soldi. Yusuf! Non li ha mai visti tanti soldi tutti assieme, ma lui non diceva sul serio, vatti a fidare, quelli l'han preso sul serio e gli portano i soldi, tanti soldi. Lui non li ha mai visti tanti soldi tutti assieme, lui è uno sbruffone, lui è un so tutto io. Lui diceva per ridere, so fare, ho imparato, vi porto alle Canarie, in Spagna vi porto, Barcellona, Real Madrid. Sbruffone. Sa guidare solo il 2 metri del padrone, il 2 metri nero e blu nelle acque calme della laguna. Sono in tanti, gli stanno addosso, coi soldi nella busta, lo fissano, gli occhi come rasoi. Quando si parte? Quando? Stanotte, dice Yusuf, e tiene in mano tutti quei soldi e fa finta di non aver paura, ma sotto se la fa addosso. E di notte scende di corsa le scale del molo, sbruffone Yusuf, 2917 ha il fiatone. Dentro, tutti su! 16 passeggeri, tutti Sahrawi. Tutti scesi dall'albero, cosa vuoi pretendere? Yusuf canticchia, fa finta di aver coraggio, gli occhi che ridono. Vi porto alle Canarie, in Spagna vi porto a vedere il Real Madrid, il Barcellona! Ha il cuore in gola lo sbruffoncello. Accende il motore. Partenza, stretti stretti su quei 2 metri neri e blu. Neri come la notte, blu come la paura. Il motore canta pieni giri sulle acque piatte come minerale della laguna di Naila. Fenicotteri rosa, pesci e capre nella bassa marea, una bella cartolina. Appena usciti dalla laguna, un'onda di 2 metri. Barcuzza piena d'acqua. annegano tutti, sprofondano, anche lo sbruffone, finito. In certi punti il mare sa di carne morta. 3.999, se quello è un 9. E quest'altro, 3.455. Ma chi ci legge qui? Non ci si capisce niente. C'è poca luce in questa baracca di lamiera. C'è poca luce in tutta l'isola. Certo che potrebbero fare qualcosa. Chiamare un tecnico. Chiamarlo io. Me la devo sbrigare da solo. Dovrebbero loro mettermela a disposizione 24 ore su 24. Mi fanno fare tutto sto lavoro da solo. Ma guarda te, guarda niente, non c'è niente da guardare, solo segnacci ovunque, incomprensibili. Beh, neanche i numeri, almeno capire i numeri, così da metterli in ordine. Dai su, sforzati almeno di leggere quelli. Se riesci a leggere le cifre, già un passo avanti. Un numerino dopo l'altro, ordine. C'è bisogno di ordine. Poi va a finire che se la prendono con te, che non hai lavorato bene. Vogliono la lista come si deve. Ti strigliano, alzano la voce, pagano, sì. Ma quando pare a loro, una miseria. Bravi quelli, bravi. A fare i grossi nei salotti. Il caviale, lo champagne, le signorine. Ma poi il lavoro sporco lo lasciano il sottoscritto. Ecco, qui c'è un 7. Sono 4 cifre, la prima un 7, la terza... E sicuramente è un 7. Ma la seconda, direi, ma potrei sbagliare, è un 7 anche questa. Eppure la quarta è un 7. Troppo facile, 7777. Troppo facile, 7777. 70 volte 7. E chi se ne frega se è facile, mica son pagato per fare un lavoro difficile, son pagato e basta. La scienza è interpretazione, ordine. Se c'è ordine e chiarezza, tutti col naso all'insù, tutti rassicurati a dire che va bene, che tutto regge. Ordine e chiarezza, le tabelline, i numeri messi in fila, per benino. Però questa è bella. 7777. 7777. Questo 7777 non mi torna. Qui dentro non c'è un nome solo, dentro un numero così ce ne possono stare 77. Te pensa alla coincidenza, 77 nel 7777. Tutti su un barcone, ammasso di gambe, braccia, teste. E allora se sono i 77, perché me li mettono su un foglio solo? Tirano a risparmiare, 77 nel 7777. Oppure mania di simmetria. Sarà... A me non piace la simmetria. Comunque quelli gridano, pregano nella notte. Gridano e pregano quelle cose là. Stipati nel barcone. Infradiciati. Mangiati da un freddo atroce. Gridano e pregano, pregano e son presi a schiaffi. Una Bibbia, un Corano inzuppati nell'acqua. Lo stomaco che urla dalla fame. Patetici. Arrivano i soccorsi. L'ammiraglio è un italiano, figlio d'arte, ammiraglio figlio di ammiragli. Una dinastia, una garanzia, una famiglia di ammiragli. Quando chiama il padre al telefono, sì signor padre, stirpe di ammiragli, sì signor padre, manco fosse quello là nei cieli, sì signor padre, al telefono chiede consigli, come si fa signor padre, in questi casi come si fa, barcone pieno di corpi, ammasso di gambe, braccia, teste, come si fa, come si fa, come si fa? Arrivano i soccorsi, la motovedetta dei militari, quella dell'ammiraglio signor figlio, e la nave dei pescatori, quella di Totò, che è un pescatore a quei tempi, se vede gente a mare subito si butta, a quei tempi. Insomma, il barcone, la motovedetta e il peschereccio, tutte e tre in un fazzoletto d'acqua, tre caravelle messe lì dal destino, il barcone, la motovedetta e il peschereccio. partono i soccorsi. Ognuno fa la sua parte, poi una manovra sbagliata e il barcone si spezza in due. È un classico. E l'ammiraglio figlio di... invece di spegnere subito i motori, che fa? Che fa? Non fa! Non spegne subito i motori! E i 77 sprofondano! La prima cosa da fare quando c'è gente a mare è spegnere i motori! Quello se lo dimentica! Ammiraglio figlio di ammiragli! Sì, signor padre! Lui se lo dimentica! 3 minuti! In 3 minuti! In quei brevi 3 minuti! Tutti! Tutti sono risucchiati, fatti a pezzi, massacrati dalle eliche, triturati dalle eliche. Tutti i 77. Bastano 3 minuti. Braccia di qua, gambe di là. Pastura per i pesci. Mica è colpa loro. Delle eliche, intendo. Le eliche non pensano, le eliche non hanno il cervello. E gli ammiragli dovrebbero. Dico il cervello, gli ammiragli dovrebbero avercelo in dotazione. Sciocchezze, tuona l'ammiraglio padre. Sciocchezze, sottigliezze, stiamo qui a guardare. Sottigliezze e soprattutto silenzio. Che nessuno fiati, acqua in bocca. Che anno era quello? Quello del 77 nel 7777. Ma diavolo, se mi cancellano pure le date. Comunque erano anni quelli. Ogni giorno 2 o 3 barconi alla deriva. Su ogni barcone minimo un cadavere. Che mica stava a riportarlo a terra. Lo ributtavi a mare. Quello era il suo funerale. Non c'è cimitero più efficiente. Economico. Un posticino laggiù non costa niente. Addobbato come si deve. Ambiente, che dire dell'ambiente, luce, pesci, sabbia e scogli. Suggestivo. Quello era il suo funerale. Su ogni barcone minimo un cadavere. Sì, signor padre, sì, signor padre. Ho sbagliato, signor padre, ma certo, signor padre. Nessuno lo verrà a sapere. Agli uomini sarà chiesto il silenzio. Sì, signor padre, il silenzio. Fuggire i giornalisti, fuggire le interviste, fuggire i ficcanaso, fuggire le televisioni, fuggire le tentazioni, fuggire le commissioni. Sì, signor padre, il silenzio, il silenzio, il silenzio, il silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, il silenzio. Il silenzio! Silenzio! Una bella colata di silenzio. Piange, piange, ma... Yeah. 44. 44? Possibile? 44. 44? Un numero così piccolo. 44. Certo che con un numero così si va un po' lontano, parecchio lontano negli anni. 44. 44. Sakina. 44. Neanche lei è sola, insieme ad altre 30 nigeriane, bambine quasi. Un carico prezioso. Queste facevano vela, queste si muovevano per mare, queste andavano per andare, queste le mandavano a fare di là, sull'altra sponda, il mestiere più antico del mondo. Un carico prezioso, belle fanciulle, molte di loro già violentate in mezzo al deserto, usate e abusate sulla pista degli schiavi. Prima i trafficanti, poi i poliziotti di Agadez, poi di nuovi trafficanti, poi ancora i poliziotti libici stavolta. Alla fine, tutte sul barcone. Un barcone già malandato, legno pessimo, un rottame. A occhio lo vedi che non terrà l'acqua. Alla fine, tutte in fondo al mare. Sakina. Sakina e le altre 30, invece che profumate nei letti dei bianchi, tra le lenzuola di raso, ora giacciono là, nel fondo, smangiucchiate dai pesci, le ossa mutate in corallo, le perle al posto degli occhi. E il trafficante che canta: non hanno tutte la colpa mia. Tutti danno la colpa a me. Non hanno tutte la colpa mia. Tutti danno la colpa a me. Che colpa ne ho io? Ma che colpa ne ho io? Che colpa ne ho io? Ma che colpa ne ho io? La barca oresse tutto lo peso. La barca non ha retto. Lo legno è scarso e malo meso. Il legno era in difetto. Che colpa ne ho io? Ma che colpa ne ho io? Che colpa ne ho io? Ripeto, ma che colpa ne ho io? Non hanno tutte la colpa mia. Tutti danno la colpa a me. Non hanno tutte la colpa mia. Tutti danno la colpa a me. Che colpa ne ho io? Che colpa ne ho io? Se il tempo era schifo. Se il tempo era schifio. Dove andate? Fermi! Statevene fermi voi! Silenzio, fermi! Ho detto osto, osto, lieti! Statevene fermi, spiriti! Spiriti liquidi, spiriti inabissati, spiriti in poltiglia! Non muovetevi qui, nessuno si muova finché non lo dico io, finché non l'ho rimesso tutto in ordine, che quelli là, quelli delle capitali, mi strigliano se non lavoro bene. Certo che la nostra è una grande politica. Su quest'isola li accogliamo tutti, su quest'isola vi accogliamo tutti, spiriti. Non respingiamo nessuno. La politica degli accoglimenti l'ho inventata io. Sono il più accorto io, sono il signore dei numeri io. Di me si possono fidare, mi pagano quelli delle capitali, mi pagano il giusto. Ogni numero un versamento in banca. Ordine e chiarezza. Mica per niente ho il petto gonfio di medaglie. Ordine e chiarezza, tutti in fila, l'elenco come si deve, un morto dopo l'altro, la lista aggiornata. Un lavoraccio. Medaglie o non medaglie, il lavoro sporco tocca a me, a quelli come me. Lasciamo perdere, è inutile protestare. Ti strigliano pure se ti lamenti, ti fanno il contropelo. I lamentosi sono di quella razza che vuole vivere con il culo nel burro. Facile per quelli sparare sentenze. Ma in mezzo a sta marmaglia, dalla sera alla mattina, chi ci sta? Chi ci sta? Il sottoscritto! Dove andate? Spiriti, restate qua! Osto, osto, restate in fila! Eia, ije, ije, yala yala, yezina me lesmo, not ije, non buona fare. Arcoshuia, arcoshuia, yezi! Niente, ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Vi accogliamo tutte qui. Nessuno escluso, non facciamo favoritismi. Qui non avrete da lamentarvi. La politica degli accoglimenti. Questa è la mia isola. Qua comando io, sono io il generale, io il presidente. Non muovetevi a un ordine. Anche se il mare ribolle, lo so. Anche se l'isola trema, lo so. Colpa del vulcano qua sotto. Sto perdendo il conto. Qui sono tutti morti, sì. Ma qualcuno è più morto degli altri. Un affollamento di scintille vicine e lontane. Ce ne sono miliardi. Non c'è più differenza di colore tra il cielo e la terra. Nero sopra, nero in basso. Un ragazzino disidratato emana un odore terribile. Nella notte si è svuotato di diarrea dentro i pantaloni. Capita. E non bisogna fare gli schizzinosi. Capita. Mica siamo al club mediterraneo. Labbra e palpebre secche. Lingua bianca e asciutta. Schiacciatola in mezzo, un ammasso di gambe, braccia, teste. E quel ragazzino là in mezzo, una montagna di culi. Capita. Ingombro di cuori, fegati, budella. Non riconosci più un proprietario dall'altro. La vita non è proprietà di nessuno, è data a tutti in prestito. Come suona vero. Che poi? Cosa vi credevate quando siete partiti? Lo sapevate! Lo sapevate come quando siete partiti all'alba dal fondo del deserto? Quando per sfuggire ai massacri vi siete intruppati dentro a quel camion scassato, quel grappolo di bidoni d'acqua? Lo sapevate! Abbandonate a rincorrere il camion a piedi nudi sulla sabbia rovente, il camion che riparte per la Libia e vi lascia lì, dopo 3 giorni senza cibo, inginocchiati a ricevere le frustate, i colpi dei militari, i tubi di gomma, cavi elettrici. Lo sapevate! Facci un regalo, gridano i militari, facci un regalo, su! Oh, ma questi sono testardi, niente vogliono regalarci! E giù frustate. Su, 10.000 franchi, cosa vuoi che siano 10.000 franchi? Quando sarai in Europa, li guadagnerai in 2 ore. Lo sapevate. E i militari ridono. E i militari sfottano. Noi già pregavamo un Dio che voi ancora suonavate i tam-tam e vi mangiavate come animali. Ridono i militari. E vi trascinano nella baracca delle torture. Tubi di gomma, cavi elettrici, qualcuno paga, qualcuno no. Qualcuno telefona a casa. Ci vogliono altri soldi, vi scongiuro. Ma come, ma per chi? Siamo nella miseria, in mezzo alle bombe, tu ci chiedi ancora soldi. Te ne abbiamo già dati un mucchio alla partenza. Ma non dovresti già essere in Francia a quest'ora, in Italia, in Svezia. Lo sapevate. Abbandonati nel deserto. A cuocere i vivi, a impazzire sotto il sole, a dimenticare anche il vostro nome. Lo sapevate che nessuno vi avrebbe tirato fuori, né padre, né madre, né fratello, né stato. Nessun governo alzerà la bandiera, nessun cristiano piangerà la vostra sorte, morte. Lo sapevate, figli di un cane, figli di nessuno. E allora? Oh madre, oh vergine, oh madre, quando 6 e poi 5 e poi 6 e 5 e poi ancora 5 e poi mi stai antipatico. 6 e poi 5 ancora 5, mi stai antipatico. Lasciamo perdere, passiamo a un altro. Oh, questo sì che si legge. 1 e poi niente. Sembra che lo fanno apposta. L'acqua, la salsedine, i numeri si cancellano e poi tocca a quelli come me. Hai voglia di protestare, il petto gonfio di patacche. Invece tocca a me, a quelli come me, sgobbare qua sotto al buio, che perde il conto. Ricomincia su. Ricalcolo. Ero sull'1. Ho capito, ma poi ricalcolo. E poi c'è un altro 1. E un altro 1. E un altro 1. Sta a vedere che come prima tutti quei 7 adesso 1111. Possibile che vengano fuori numeri così raggianti in questa oscurità? 1111. A me non piace la simmetria. 1111. Yasmin da Tunisi. Dalla Casbah su per il canale di Sicilia. Yasmin. A 800 metri dalla riva, patatrac, la barcaccia si spezza. Yasmin impavida li fa a nuoto quegli 800 metri, tirandosi dietro l'amica. A nuoto se la tira dietro. Ma no, che non ce la fa. L'amica ha le gambe spezzate, un corpaccione, uno scatolone di donna. 1111 invece, testarda, Yasmin, forzuta e piccolina, se la porta dietro come un valigione di grasso quella sua amica. Gli ultimi 800 metri a nuoto non finiscono mai. Ma alla fine ce la fa. La Sicilia incantata. La mettono a lavorare quelli, non perdono tempo quelli che l'hanno portata lì. Fidati Yasmin, la mettono a sgobbare dall'alba al tramontare, da un ottantenne, nella casetta di un ottantenne, nella villetta di un ottantenne. La serva fa un po' di tutto, la serva serve. 1111 Yasmin lo serve l'ottantenne, anche per quella cosa là. Perché chi può sostenere che a 80 anni non si sia in grado anche quella cosa là? 1111 a Yasmin non piace, a chi piace, ma lei la fa. Pensa a quegli altri smangiucchiati dai pesci. E la fa quella cosa là, anche con l'ottantenne. Pensa giorno e notte ai parenti a casa che aspettano da lei, aspettano che lei. E Yasmin la fa, anche con l'ottantenne. Lui non si crede male, dice che è sempre piaciuto lui, che mai ha avuto problemi lui con le femmine. Paga. Lui paga. Yasmin, albuti, ma mia tomba in alla sua, ma giura tu quanti fissanti. Mi gira chi tata la mia. Uamin, ad chiavi. Wow, ciao, 12.345. Non identificato. 12.876. Non identificato. 14.545. Non identificato. 26, non identificato. Accidenti, un numero così piccolo, se fossi un collezionista varrebbe oro. 3462, non identificato. 4359, non identificato. 6758, non identificato. 4445, non identificato. 789, non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Possibile, un numero così alto. Forse c'è un errore. Comunque, non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Sabbia nericcia, fume, bitume. Qua sotto il vulcano lavora. Oltre se lavora. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Senza vento si squagliano anche le pietre. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. La pilli spruzzi sul furei, schegge lava incendiaria, il cratere di cineraccio e fango scuro. E chi ci vede con tutto sto fumo? Tunisi sarà laggiù. Sarà laggiù. Dall'altra parte c'è Malta, in mezzo Lampedusa, l'isola dei conigli. Ma chi le vede adesso? La pilli spruzzi sul furei dentro gli occhi, schegge lava incendiaria giù nella gola. Certi giorni non mi ci raccapezzo, brucio dalla testa ai piedi, perdo le coordinate. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Luce rossa, non identificato. Acqua verdognola, non identificato. Tremolio e vomito, non identificato. Ricoperto fino alla coscia, fino al ginocchio spappolato, non identificato. Ripescato dopo qualche giorno, faccia irriconoscibile, faccia divorata dai pesci. Non identificato. Certo che i pesci sono delinquenti. Non guardano in faccia a nessuno. Maledetti squali, maledetti pescecani, maledette triglie, e tonni, e leviatani, e bahamut, e orche zaratani. Maledetti sanpietrini, maledetti pesce palla, maledetti pesce spada, e martello, e tigre, e coltello. Maledetti pesci lupo, iene dalla bocca larga. Maledetti voi, sciacalli e sciacalletti degli abissi. Voi, belve del mare, mandrie così assatanate che non fate differenza tra questo e quello. Non fate differenza. E con le larghe mascelle spalancate tirate morsi a tutto quel ben di Dio che vi capita intorno. A pacchi ve li trangugiate, quei corpicini, quei cadaveri senza più luce. Maledetti voi! Che impedite a me, di fare il mio lavoro, di metterli in fila, di dargli un nome a quei trapassati inquieti che non stanno fermi un secondo. Mi riempiono l'isola di strida, Maledette voi, creature delle acque! Ve la meritate questa predica, oltre se ve la meritate. Vi ingozzate di tutto, non fate differenza tra polpa e polpa. Tutto buttate giù in questo mare di mezzo. Chi vi credete? I becchini ufficiali, i becchini dell'impero. Chi vi ha autorizzato? E prima fatemeli contare, no? Delinquenti! Delinquenti organizzati! Ve la meritate questa predica! Ho il sangue avvelenato! Ho il fegato grosso! Non si mettono i bastoni tra le ruote a un sorvegliante integerrimo, a un funzionario solerte come me! Eh no! Così non si fa! Non sta bene! Perché non distinguete tra numero e numero? Perché non siete più precisi? Ma che cos'è tutta sta confusione? Sto magna magna! E d'altronde, a ben guardarvi, non avete testa. La testa, dico, voi non ce l'avete. Un collo che ve la distingua dal corpo, voi non ce l'avete. E quindi, cosa si può pretendere alla fin fine da gente come voi? Come vi devo parlare, squali? Devo gridare, fare come il tonitruante governatore motor del cielo, imitarne il vocione. Cosa devo strologare per aprirvi le orecchie, sturarvi il cerume che ve le sbarra? Perché proviate un po' di pena, per me in primis, ma anche per quella pazzerella, per quello scheletrino tra le rocce, la 6132. Obedience la posso chiamare. Bel nome. Obedience. Scappata dalla guerra e dalle bombe. Obedience, chiamiamola così. Che obbediente ha seguito il suo destino. E che doveva fare? Che scelta aveva? Libero arbitrio, direte voi. Il questorino dei fati, dico io. Ha scelto di scappare un giorno qualunque. Impugnare l'alba come un coltello e fuggire. Fuggire la sua patria incerta, la terra natia, e le torture certe, per farsi sbucanare prima dai soliti militari infogliati, dai trafficanti, e poi perduta negli abissi, farsi spolpare da voi, squali, per essere ospite una delle tante al vostro banchetto. Maledetti ingordi! Bella conclusione. Bella, bella. Bella conclusione. Bella, bella conclusione. Obedience. Obbediente al fato. Obbediente al vostro stomaco che non si sazia mai. Squali! Porci del mare! Che tutto divorate, sfigurate e non vi basta mai. Siate un po' più umani. Squali! E Jean-Baptiste? Jean-Baptiste? Jean-Baptiste è un pischello, poco più che un bimbo in mezzo a tutti gli altri. Il gommone alla deriva, ne teneva 12, sono partiti in 40, ma il motore patatrac. E allora alla deriva, Jean-Baptiste guarda i più grandi, qualcuno ha gli occhi spenti, vuole dormire. Come si fa a dormire? Non dovete dormire, con l'acqua che ci arriva all'ombelico non si deve dormire. Jean-Baptiste, resisti. Ma se non resistono loro, che facevano i grossi alla partenza? Solo acqua tutto intorno. L'orizzonte e il cielo sembrano anche loro d'acqua. Niente più da mangiare, niente più da bere. Sei in mezzo a tutta quell'acqua e non puoi berne una goccia. Le onde cominciano, trascinano i più deboli nel fondo. Jean-Baptiste no. Jean-Baptiste è poco più che un bimbo, ma è forte. La mamma l'ho riempito di grigri e lui ora se li divora. Ce ne ha una apposta per non annegare, fatto di sabbie e di ossicini, di formule magiche. Se lo mangi non annegherai, stai sicuro. Poi ce ne ha un altro che serve a diventare invisibili. A cosa gli serve adesso? il grigri per diventare invisibili. Quello avrebbe dovuto usarlo nel campo da calcio, nel campo da calcio del villaggio. Là sì, diventare invisibile, far impazzire gli avversari, fargli lo sgambetto, rubargli il pallone tra le gambe e passarlo ai suoi. A cosa gli serve adesso il grigri per diventare invisibili? Il gommone alla deriva. Non dormite, non dormite, se dormite è peggio. Tengono gli occhi spalancati, fuori dalle orbite, schizzati. Cosa vedono quei cerchi bianchi? Che cosa vedono? Vedono torri e città fantasma, vedono minareti e palazzi, vedono fate e sirene, vedono i soccorritori che non soccorrono, non ci sono, vedono e stravedono, la morte no. Quella non la vedono. Quella li ha già afferrati per il collo e se li trascina giù come un braccio armato. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste è partito anche se la madre non voleva. Ah no, solo questo figlio mi è rimasto, questo non lo posso perdere. Lo scafista l'aveva rassicurata. Stai tranquilla, com'è tuo figlio è già di là, è già in Europa che guadagna, lavora e ti telefona tutte le sere. Stai tranquilla. Lo scafista che ha messo in moto il gommone e dopo 300 metri si è buttato. È ritornata a nuoto e dopo poco era già là a bersi una birra coi soci all'asciutto. Stai tranquilla! Lui è ritornato a nuoto e li ha lasciati là a bisticciare. Chi lo guida il gommone? Io, lo guido io, i grandi che fanno i grossi. No, lo guido io! Tutti che vogliono comandare. Lo scafista. Stai tranquilla! 300 metri e poi è ritornata a nuoto e Jean-Baptiste tace. Troppo piccolo, che ci pensino i grandi? I grandi ci pensano, ma sono tutti impauriti. Quelli il mare non l'hanno mai visto, quelli sono tutti contadini. Vai di qua, gira di là, le stelle, non le sai leggere le stelle? Vai dritto, incapace, incapace a me. Quasi le mani addosso. 3 giorni passati a girare attorno allo stesso punto, fin quando il motore si è rotto. 4, 5 giorni alla deriva. 5, 6, 7 giorni alla deriva. Jean-Baptiste, non impazzire. Pensa a tua madre. Quando sarai di là la chiamerai tutte le sere. Sto bene, mamma, lavoro. Qua i soldi si trovano per strada. Non ti bastano quelli che ti ho mandato ieri. Te ne manderò altri. Jean-Baptiste, resisti, non ti addormentare, non chiudere gli occhi. Prega, Jean-Baptiste, prega. Io questo grigri me lo conservo. Sabbie e conchiglie, questo è fatto apposta. Questo mi servirà davanti alla polizia. Ammetti che mi sparano addosso. Sabbie e conchiglie mi proteggeranno. Devieranno i colpi. Jean-Baptiste, non cedere. È un bambino, poco più, ma è forte. Il gommone alla deriva. C'è confusione là sopra. Tutti quei grandi come donnicciole. Chi grida, chi piange, chi vomita. Qualcuno va fuori di testa, vede la terra. Terra! Terra! Si butta. Il mare lo inghiotte. Jean-Baptiste, non fare lo scemo. Tu non ti buttare lì dentro, devi stare. Il gommone è la salvezza. Il gommone ti porterà di là. Il gommone, anche se adesso gira su se stesso, il gommone è il guscio che ti protegge. Il gommone è come un grigri. Accanto a Jean-Baptiste c'è uno dei grandi. Uno di quelli che litigavano alla partenza, abbandonati dallo scafista. Uno di quelli che gridava forte, più forte degli altri. So io come si guida sto coso. Se non mi date retta vi spacco la testa. Adesso è la sua testa che penzola. Jean-Baptiste lo chiama. Grida il suo nome, prova a smuoverlo. Gli occhi spalancati. Quello non batte ciglio. La testa a pelo d'acqua penzola come cosa morta. Nubi che oscurano il cielo. Stanotte non ci sono stelle. Nero sopra, nero in basso. A un tratto Jean-Baptiste si alza in piedi. Dice sicuro: io torno da mia madre. E si tuffa. Nuota per un po'. Quanti metri? 20? 30? E poi viene tirato giù. Scompare. Scompare. Figlio peggio ti voli la mamma, un cucitiaggio di coco la tunna. Se tu non ci vai, un papà si nell'agna, suo figlio peggio è della Spagna. C'è Gesù che chianta e si mina, chianta e si mina, lo base di go, sto figlio Pedro s'addormentò. S'addormentò, vienti la culla, ecco Gesù e la Madonna. E lo papà quando ritorna trova sto figlio che fa la nanna. Entra la noia, entra la ninna, sto figlio che ancica vuole la minna. E se sto figlio non vuole dormire, e tammolo in terra e assammolo ieri. È vero che a volte mi invitano alle loro feste, mi sorridono. Mi fanno sentire importante. Generale lei, non mi chiami generale. Presidente lei, non mi chiami presidente. Ma come cazzo vuole essere chiamato? E va bene, vada per presidente, su, riprenda col panegirico. E quello riprende. Presidente lei è un simbolo di libertà. Presidente lei è un modello per le nuove generazioni. Presidente lei è la sua politica degli accoglimenti. Mi sorridono. Mi fanno sentire utile. Sono tutti amici. Anche quelli che prima voltavano la testa dall'altra parte, anche quelli che un tempo fingevano di non conoscermi, anche quelli, quando è il momento, anche quelli mi cercano, fanno affari con il sottoscritto, mi strizzano l'occhietto, anche quelli, quando è il momento, non si tirano indietro. Senza la sua politica, presidente, i nostri governi faticherebbero. E te credo. Grazie alla sua politica, presidente, le nostre democrazie rifiatano. E te credo. Per questo le siamo riconoscenti. Grazie. Prego, i nostri accordi bilaterali, presidente, illuminano il mondo. Mi offrono lo champagne, il caviale. Scattiamo le foto insieme. Siamo gente di mondo. Roma, Berlino, Mosca, Parigi, Tripoli. Ci incontriamo regolarmente, sappiamo sorridere, rispondere ai giornalisti, anche ai rompicoglioni, fare le battute al momento giusto, usare le parole chiave. Libertà, progresso, felicità dei popoli. Fanculo i popoli. Convivenza civile. Fanculo la convivenza civile. Crociere per tutti. Fanculo le... Non fanculo le crociere, anzi, viva. Viva le crociere. Un settore che non conosce crisi. Quelli che vanno in crociera aumentano giorno dopo giorno. È un'epidemia. Un tempo era roba da ricchi come il tennis. Oggi è un passatempo popolare. Turismo di massa. Ne vedo passare 3 al giorno di navi da crociera. Li sento divertirsi là sopra. Ballano e se la spassano. Allegria, baldoria. Là sopra fanno di tutto. È lì il segreto. Certo che mi pagano poco. Mi pagano, non dico di no, ma troppo poco. Una miseria se paragonato al lavoro che faccio su questo schifo di isola. Mica c'è luce qua sotto. Un fetore. Colpa del vulcano. Lavoro sporco, ripeto, accogliere, contare, contare e accogliere, tenere la lista aggiornata. Un lavoraccio. Vaglielo a spiegare al ministro dell'inferno. Lui la fa facile, il ministro dell'inferno. Lui alza la voce, il ministro dell'inferno. È più facile accogliere che respingere. È più facile accogliere che respingere. Non è mica vero. È falso. Non c'è niente di più falso, signor ministro. Solo una carogna può mettere in giro una voce simile. Da quanto tempo sono alle sue dipendenze, signor ministro? Da quanto tempo sgobbo come uno schiavo? Tenere la lista aggiornata degli annegati le sembra cosa da poco, signor ministro? Le sembra cosa da poco questa montagna di morti che si alza immacolata verso il cielo? Le sembra cosa da poco? La vede lei la cima, signor ministro? La vede? E poi tenerli tutti qua, ammassati, che ancora non ho capito come facciamo a starci tutti su questo sputo di terra, su questo francobollo. E Jean-Baptiste, per esempio, si alza in piedi, sicuro, e io torno da mia madre, si tuffa, scompare. Che numero è Jean-Baptiste? A che numero mi corrisponde, signor ministro? Io non lo so. Io, generale e presidente, incaricato del censimento, io non lo so che numero è Jean-Baptiste. Non ci leggo. Non ci leggo, signor ministro. Non ci leggo. Non ci leggo. Quando la scala scende non fa legge, un anno che ho parente, un anno a me. La scala la scena.